Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia. Buona domenica, ben ritrovati ai Padri Eterni da Federico Taddia e Matteo Bussola, ognuno dalla propria casa, ma sempre qua presenti per raccontarvi l'essere padri e raccontarvi anche l'attualità con gli occhi, appunto, della paternità. Ciao Matteo, buona giornata. Ciao Fede, buona domenica a te. Continua questa quarantena, continua questa convivenza diversa, no? Non usiamo altri aggettivi, con i nostri figli, nuove competenze che si attivano, ci sta un po' abituando, anche se insomma il desiderio che tutto questo finisca lo vediamo negli occhi, lo vediamo negli umori dei nostri figli, vero Matteo? Sì, assolutamente. Ci sono troppe cose che gli mancano, però devo dire che rimango sempre sorpreso dalla maniera che hanno soprattutto i più piccoli di aggirare questa situazione. Io devo dire, sono rimasto quasi commosso questa settimana dalle mie due figlie più piccole, che hanno attivato questa corrispondenza con le loro amichette, cioè si scambiano regalini, si fanno dei disegni, si scrivono dei biglietti, e poi le mamme o i papà, quando vanno a fare la spesa, li lasciano nella cassetta delle lettere dell'amichetto o dell'amichetta. I doni vengono poi lasciati in quarantena 24 ore giusto per sicurezza e poi vengono aperti. Mi sembra una bella maniera anche per mantenere un contatto anche nella vita vera. Fantastico. C'è però voglia di libertà? Ieri era il 25 aprile e oggi partiamo proprio da qui. Nessuna conquista è per sempre, c'è sempre qualcuno che è interessato a toglierla, per cui resistere è non solo un dovere ma una necessità dei giovani, altrimenti non si va avanti. E terra e acqua e vento, non c'era tempo per la paura, nati sotto la stella, quella più bella della pianura. Avevano una falce e mani grandi da contadini, e prima di dormire un padre nostro come da bambino. Sette figlioli, sette di pane e miele a chi li do. Sette come le note, una canzone gli canterò. E pioggia e neve gel, e folla e fuoco insieme al vino. E vanno via i pensieri, insieme al fumo, su per il cammino. Avevano un granaio e il passo a tempo di chi sa ballare, di chi per la vita prende il suo amore e lo sa portare. Sette fratelli, sette di pane e miele a chi li do. Non li darò alla guerra, all'uomo nero, non li darò. E partiamo proprio dalle 25 e lo facciamo portandovi una storia molto conosciuta, la storia dei sette fratelli cervi, sette fratelli trucidati dai fascisti, storia che è stata raccontata qualche anno fa da Adelmo Cervi con Giovanni Zucca nel libro Io che conosco il tuo cuore. E noi oggi qui abbiamo il piacere di avere Adelmo Cervi. Ciao Adelmo, buona domenica. Ciao, grazie. Adelmo, la tua è la vita di un figlio che per tutta la vita hai voluto raccontare la storia di tuo padre e dei suoi fratelli, vero? Cosa ha significato per te essere uno dei figli dei sette fratelli Cervi? Diciamo che ha significato un impegno un impegno forte, ma un impegno anche difficile, un impegno che mi è costato anche dei momenti particolarmente dolorosi, particolarmente forti di quello che di quello che era successo, di quello pensando che una famiglia intera ha dato la vita per creare un mondo di giustizia e questo mondo di giustizia non arrivava mai, e quindi credo che questo sia uno dei punti fondamentali. Adelmo, senti, adesso al netto della questione politica che non ci interessa, ma in questi anni abbiamo assistito diverse volte a vari tentativi di rilettura del 25 aprile, no? Di tirare la ricorrenza per la giacchetta un po' più di qua, un po' più di là, a volte di sminuirla. Che cosa pensi da figlio che ha avuto un genitore morto per quegli ideali? Cioè, ti dispiace quando lo vedi accadere? Intanto devo rimproverarti, perché se si parla di resistenza, se si parla dei terroristi, non si può dire non parliamo di politica, perché per me la politica è il vivere, quindi il vivere, certo. Quindi la politica, se tu le interpreti come quella politica di chi la usa per botteghe personali, sono d'accordo con te, ma la politica vuol dire che si entra con gli ideali per il quale ha combattuto mio padre e migliaia e migliaia di altri che ci hanno dato la vita. Quindi questo era quello che penso di certi personaggi che me lo chiedono ogni tanto. Io devo dire che spesso rispondo con le parole di Salamandrei, quando dice: ci sono i cervi e ci sono gli altri, io sto con i cervi. Gli ideali dei cervi sono precisi, sono gli ideali dei combattenti per la giustizia, per la libertà, per avere un mondo più equo di quello che c'è, e quindi certi personaggi non mi interessano, certi personaggi per me sono fuori della storia, personaggi che si richiamano ancora al fascismo, anche se lo fanno in un modo coperto, ma usano gli stessi crimini o cose del genere, e io credo che non, per me non va niente, ma ci sto a polemizzare e a rispondere a questi muri di personaggi. Adelmo, quanto ti è mancato il tuo papà? Te lo sei chiesto, te la sei fatta questa domanda nella tua vita? Io credo che mio padre mi sia mancato molto, e credo che mio padre e tutti quelli che hanno combattuto come mio padre e come i miei esili, mi hanno lasciato un grosso peso, e credo che mancano non solo a un figlio, ma mancano a tanti, perché sarebbero stati molto positivi e importanti che questi combattenti potessero continuare a combattere come stavano facendo, perché ne avremmo avuto bisogno per sempre. Quindi non è una mancanza solo personale, che è quella purtroppo di chi è rimasto orfano piccolo, ma anche il dispiacere di avere perso delle persone che potevano aiutarci ancora molto nel proseguo della nostra vita. Adelmo, senti, spesso si ha l'impressione di questi tempi che la libertà sia considerata un valore scontato. Come possiamo fare da padri invece per trasmettere l'idea che la libertà è un valore che va conquistato tutti i giorni, secondo te? Questa è una domanda non semplice da poter rispondere. Io penso che la libertà è una cosa importante, io penso che tutti quanti ci dobbiamo impegnare perché la libertà sia un valore universale, penso che noi dovremmo stare vicino ai nostri figli, ai nostri nipoti, ai nostri ragazzi per poterli fare capire quanto sia importante la libertà. Vuol dire rispettare gli altri, vuol dire che ognuno di noi ha la capacità e la libertà di potersi sentire una persona rispettata nei suoi diritti, e quindi questo per me è un senso di quello che può essere a portare avanti delle battaglie della libertà. Credo che ai ragazzi bisogna raccontargli che cos'è stato l'antifascismo, che sono state le ingiustizie che abbiamo in questo mondo, raccontargli che spesso la gente più umile ha dovuto sottostare a dei sistemi anche che sono oppressivi, nel loro confronto. Quindi la libertà deve essere una cosa che si unisce tutti quanti, si può salvare, si può progredire su questo, se tutti quanti abbiamo ancora nell'animo la voglia di lottare perché questa libertà non venga conquistata da parte di chi vuole una libertà solo per i valori suoi. Ringraziamo Adelmo Cervi per essere stato qua con noi, per aver condiviso la sua storia di figlio di un partigiano. Grazie davvero Adelmo e buon 25 aprile, anche se era ieri la giornata, ma questa giornata così importante, questa liberazione va comunque celebrata ogni giorno. Buona domenica. Buona domenica, un saluto a tutti quanti, un abbraccio a tutti gli antifascisti e gli amanti della libertà del nostro paese. Ciao, ciao, ciao. Ciao, grazie Adelmo. Padri eterni. They're taking her children away because they said she was not a good mother. They're taking her children away because she was making it with sisters and brothers and everyone else, all of the others, like cheap officers who would stand there and flirt in front of me. They're taking her children away because they said she was not a good mother. They're taking her children away. Eccoci qua ancora con i Padri Eterni. In queste settimane vi stiamo raccontando anche tante storie, storie di padre anche in prima linea, non solo storie di relazioni con i propri figli, ma anche del come contestualizzare questa situazione, del come le nostre vite stanno cambiando. Oggi lo faremo con due lettere molto diverse, però ci piaceva che ci fosse proprio la parola scritta come collante. E sono lettere di due padri. La prima in particolare è la lettera di due genitori che hanno scelto di scrivere una lettera al figlio di due anni. Diamo il benvenuto a Fabio Micheli, il papà, medico rianimatore dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, che appunto insieme a Giulia, la moglie, è autrice di questa bella lettera al figlio. Ciao Fabio, buona domenica. Ciao, buona domenica a voi. Allora Fabio, come mai avete scelto di scrivere questa lettera a vostro figlio? L'idea nasce dal fatto che siamo rimasti molto distanti in questo periodo. In realtà scriviamo lettere a nostro figlio ogni tanto, quando succede qualcosa magari di importante, un trasloco da una città all'altra, che c'è stato un anno e mezzo fa, insomma, che ha cambiato tanto anche la nostra vita. E questo era forse uno dei momenti un pochettino più toccanti in realtà dell'ultimo anno. Noi, diciamo, Francesco, nostro figlio, è sempre stato abituato a vivere un po' a casa nostra, un po' dai nonni, insomma, spostato a destra e a manca purtroppo per venire un po' incontro anche ai nostri lavori. Ma questa epidemia credo che sia stata un po' l'apice. Io mi ricordo ancora il 23 di febbraio, eravamo in Liguria a pranzo da amici e mia moglie è stata contattata dal suo primario per rientrare a Monza e a lavorare di notte appunto per l'emergenza che stava arrivando. Quindi siamo partiti da Savona e siamo andati a casa di mia madre, abbiamo lasciato nostro figlio ed era un po' un addio, perché non sapevamo quando l'avremmo rivisto, non sapevamo quanto fosse sicuro rivederci, quanto effettivamente magari potesse essere pericoloso per un bambino contrarre questa infezione, e un po' malincuore quindi l'abbiamo tra virgolette lasciato, se non abbandonato, ecco, ai nonni. Poi per fortuna, un po' perché lui cominciava effettivamente a manifestare un sacco di richieste, perché il papà e la mamma non ci sono, perché sono sempre al lavoro, nonostante abbia 2 anni, quindi a distanza di 3 settimane siamo riusciti a concordare un po' con i nonni un ritorno a casa del bambino, per quanto cercando di tenere comunque delle distanze e un minimo di quarantena, diciamo, anche per tra noi e lui, insomma, pochi abbracci, niente baci, una doccia prima di riabbracciarlo appena si finisce il lavoro. E a distanza praticamente di 1 mese e mezzo abbiamo deciso di scrivere questa lettera in cui poi cercavamo di spiegare, poi lui la leggerà probabilmente quando sarà più grande, speriamo, quello che è successo e perché questa cosa è stata tanto importante per noi. Fabio, senti, tu sei un medico rianimatore, tua moglie è un'infettivologa, no? In questo periodo naturalmente si parla moltissimo dei medici, del loro lavoro più che mai prezioso e insostituibile, ma raramente si pensa, ci si ferma a pensare che i medici sono anche madri, padri, sono anche genitori. Ci hai spiegato, no, quanto è difficile conciliare il vostro lavoro con la genitorialità, ma quando tuo figlio sarà grande, quando sarà cresciuto, quando leggerà questa lettera, cosa pensi che vi dirà? Cosa pensi che penserà di voi? Cosa pensi che sarà maggiore, la riconoscenza, la tristezza, anche perché questo periodo vi ha tenuti un po' lontano da lui? Se dovessi fare delle ipotesi, cosa diresti? Ma io e anche mia moglie in realtà pensiamo che Francesco, nostro figlio, sia stato un po' quella cosa che ci ha dato la forza in questo periodo, perché lavorare in prima linea, io che mia moglie in realtà con questa epidemia ci ha messo psicologicamente chiaramente molto alla prova. Arrivare a casa e sapere che anche per magari una mezz'ora c'è un figlio che è felicissimo di vederti e per quel poco tempo riesce a farti staccare la mente dal lavoro, credo che sia la cosa più importante, quello che sicuramente ci ha fatto reggere la pressione di questi mesi. Io spero che lui possa leggere in questa lettera proprio questo punto, cioè la centralità che lui ha avuto in me e in mia moglie per aiutarci a superare questa epidemia dal nostro punto di vista. Fabio, grazie davvero per aver condiviso con noi questa vostra esperienza. Pubblicheremo la lettera sulla nostra pagina Facebook in modo che tutti possano leggerla, ed è bellissima anche questa idea di un papà e di una mamma che scrivono lettere al figlio nella certezza che un giorno queste lettere verranno lette, perché anche questo è fare memoria, anche questo è fare relazioni. Ciao Fabio, buona domenica. Grazie, buona domenica a voi. Padri Eterni, radio24.it è il nostro sito, da lì potrete poi scaricare il podcast e riascoltare la puntata. E continuiamo con le lettere, questo strumento che probabilmente forse anche il tempo della quarantena ha fatto riscoprire, lettere per raccontare e raccontarsi ai propri figli, come ha fatto Valerio Cornolti, che è un papà e che ha scritto una lettera, l'ha condivisa con una testata di Brescia, BS News, bsnews.it, che tra l'altro ringraziamo perché insomma ci ha aiutato nel rintracciare Valerio. Ciao Valerio, buona domenica. Ciao, ciao a tutti. Allora Valerio, come mai hai scelto di scrivere una lettera a tua figlia sul coronavirus? ma sai, quella lì era una notte un po' così, no? Di quelle che non riesci tanto a dormire, cioè mille pensieri, altre cose, e allora ero solo in soggiorno e mi sono iniziato a chiedere e quando cresce Anna Lu che cosa ti devo raccontare oltre ai libri di storia, e quindi è venuta fuori questa lettera scritta sull'iPhone e così, senza revisioni, senza molto, molto di petto, molto di pancia. Ma infatti, Valerio, tu nella tua lettera scrivi proprio, no, scrivi a tua figlia, mi chiedo cosa ricorderai di tutto questo e non so come potrò integrare responsabilmente questi tuoi frammenti, cosa sia giusto e di cosa sia sbagliato raccontarti quando tutto questo sarà finito, no? E però poi lo dici, cioè la sensazione è che tu voglia investire solo sulle parti belle e costruttive, tralasciando di parlare dei complottisti, di quelli che è colpa dei cinesi, delle brutture, ma investire invece sul bello. Di che cosa parlerai a tua figlia? Che cosa vuoi ricordare per lei di questo periodo? Ma guarda, io sono una persona molto positiva, molto aperta, e credo proprio che la lavagna dei buoni e dei cattivi ci sarà tempo per farla, no? Per i prossimi 10, 15, 20 anni. La cosa importante è che questi figli capiscano che ci può essere un domani bello, che l'essere umano è in grado di superare difficoltà e che è in grado veramente di essere splendido nel suo essere più profondo. E quindi voleva essere un po' anche un consiglio, no? Per tutti quei genitori che hanno oggi figli piccoli e quindi devono spiegare come mai non si esce, come mai non si fa. E io vorrei proprio che nel futuro tutti ricordassimo solo il bello, perché poi sai, la vita è fatta di alti e bassi, noi dobbiamo sempre tenere presente gli alti, tanto i bassi tornano a tormentarti ciclicamente, quindi è inutile ricordarseli, ci pensano da soli. Infatti questa lettera, come hai bene detto, è una lettera sì scritta a tua figlia, ma è una lettera scritta ai tanti papà e alle tante mamme. Valerio, prima di salutarci, una domanda che stiamo facendo a molti padri in questo periodo. Il coronavirus ha cambiato il tuo essere padre? Il coronavirus lo ha cambiato, perché uno si preoccupa per i figli, no? È normale, il giorno che questo esserino ti finisce tra le braccia per la prima volta ti cadono addosso dei macigni di preoccupazione che prima non avevi, no? E quindi soprattutto in questo caso il macigno è educare i figli a capire che possono succedere anche cose molto gravi, molto pericolose, ma che comunque devono portare avanti sempre un ragionamento di rispetto, di amore, di condivisione e di tolleranza. Grazie davvero a Valerio Cornolti per essere stato qua con noi. bsnews.it è il sito dove potete leggere la sua lettera, lettera che ha condiviso oggi con tutti noi. Grazie, buona domenica. Ciao Valerio. Ciao, grazie, ciao a tutti, un abbraccio. Noi ci fermiamo, è il momento del meteo e della pubblicità e poi siamo qua di nuovo insieme a voi. Il giorno in cui siamo diventati grandi per uno schiaffo o una carezza, la volta in cui abbiamo conosciuto la morte, tutte le nostre prime volte, ma anche tutte le nostre ultime, l'estate del primo amore o il traguardo della maratona che non pensavamo di poter tagliare. Ogni nostra storia, piccola o grande, racconta di una linea, un confine che abbiamo varcato, una soglia oltre la quale siamo passati, a volte senza accorgercene, altre dopo mesi o anni di lavoro. Linea d'ombra non si limita più a raccontare i vizi capitali, ma tutte quelle storie che hanno segnato un confine nella nostra vita. Le linee d'ombra che nel bene o nel male ci hanno fatto diventare le persone che siamo. Scrivetele in una o due pagine e inviatecele a lineedombra@radio24.it. Noi le prendiamo e ci costruiamo intorno a una puntata. Linee d'ombra di Matteo Caccia, da lunedì al venerdì alle 15 e il sabato alle 21:30 su Radio 24. Padri eterni. Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. sono spiacente. Perdonami. Buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola, eccoci qua, i Padri Eterni, radio24.it il nostro sito. Come sempre vi ricordo che dopo la puntata potrete scaricare il podcast, ma potete anche scriverci, padrieterni@radio24.it se volete contattare la nostra redazione, oppure ci trovate sui social, in particolare nella pagina Facebook i Padri Eterni di Radio 24, dove pubblichiamo anche tutti i link relativi agli argomenti che stiamo toccando. Adesso entriamo un po' nel mio campo, Matteo, anche se tu quasi ci sei, no? Perché parliamo di adolescente, la tua figlia più grande è lì, è preadolescente, ma ogni giorno si avvicina sempre di più, vero, a quel traguardo che tanto temi. Sì, no, ma ormai siamo in fase conclamata, ha 13 anni, quindi direi che siamo in piena adolescenza. Siamo in piena adolescenza, adolescenti che ci stanno comunque stupendo, adolescenti a cui stiamo chiedendo anche tanto, adolescenti forse ai quali dobbiamo chiedere anche scusa per certe critiche che in queste settimane gli abbiamo rivolte. Di tutto ciò ne parliamo con un esperto di adolescenza. Diamo il benvenuto a Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta e presidente della Fondazione Minotauro di Milano. Ciao Matteo, ben ritrovato. Buongiorno a tutti, buongiorno. Questi adolescenti, Matteo, allora all'inizio non volevano stare chiusi in casa, abbiamo dovuto convincerli, hanno festeggiato perché la scuola era sospesa e poi però è successo qualcosa, no? Nel senso che sono diventati molto, molto più bravi di noi. Ma sì, fermo restando che, come sai, i fatti di cronaca possono sempre dire quello che dici, mi sembra che se c'è una parte della popolazione che si è comportata bene, che ha aderito appunto a quelle che erano le ordinanze, i cambiamenti, c'è stata proprio quella degli adolescenti che non hanno combinato guai, un'età in cui insomma la socialità manca, ma in realtà si sono messi in linea, forse perché anche responsabilizzati finalmente dagli adulti, e per ora hanno retto, anzi io dico che saranno gli ultimi a mollare, mi auguro. Un po' di stanchezza adesso si inizia a sentire, la sentiamo tutti, anche noi papà appunto. E infatti noi papà, che sai, adesso questa esperienza personale, quindi come sempre è difficile generalizzare, io da padre sono rimasto molto sorpreso da mio figlio adolescente, da come è stato capace di rioccupare i tempi, giocando sulla sperimentazione di altre abilità, sperimentazione di altri spazi, anche mi viene in mente sperimentazione di cose che ha ritrovato per casa, una vecchia macchina fotografica, un treppiede da pittore, e come non aveva mai fatto ci ha rimesso le mani addosso, e questa cosa mi ha tanto stupito. Guarda, io credo che davvero siano due le parole chiave che non dobbiamo dimenticare, che spesso invece non sono utilizzate anche a livello di proposta di modelli educativi, cioè la creatività e la responsabilità. Molto spesso gli adolescenti sono rappresentati in modo infantilizzato e si pensa che la creatività va bene per i bambini, no? In fondo finché si va alle scuole primarie si dice è creativo, il bambino, l'allievo sono tutti contenti. Quando senti parlare del fatto che un adolescente a scuola è creativo, come diceva un padre che seguivo appunto, dice in poche parole mi stavano dicendo che non studiava niente, no? Invece la creatività e la responsabilità sono degli aspetti sui quali puntare. Tu dicevi prima del chiedere scusa, io sì, ho scritto all'inizio una lettera perché proprio mi sembrava che inizialmente in un momento di forte confusione fossero usciti anche degli articoli su giornali importanti che un po' infantilizzavano con lettere che appunto tendevano a trattarli come dei bambini, ma poi soprattutto parlavano di adolescenti trasgressivi, che peraltro non è più la cifra degli adolescenti odierni che sono tutto meno che trasgressivi e che se ne sarebbero fregati dei nonni ed erano in giro all'ora dell'aperitivo a fregandosene appunto del fatto perché loro erano meno, come dire, coinvolti dal punto di vista del virus e della sua letalità. La verità è, ed è lì che ho chiesto scusa, che se c'era una generazione, cioè si è rischiato anche di alimentare un po' il conflitto generazionale, mentre in realtà se c'era una generazione che poteva un po' arrabbiarsi, se dopo il disboscamento del pianeta, la plastificazione dei mari e il fatto che diventeranno più poveri di noi, ci fosse in giro questo virus che non dipende da loro, poteva essere proprio quella degli adolescenti. Quindi mi sembrava troppo accusarvi di fregarsene dei nonni, anche perché, devo dire la verità, negli ultimi anni in realtà i ragazzi forse sono le generazioni più legate che mai ai propri nonni, perché i nonni sono quelli che mentre noi lavoravamo li sono andati a prendere spesso all'asilo, li hanno fatti addormentare, e tanti ragazzi che incontriamo nella nostra attività, nei nostri centri di consultazione e psicoterapia, in realtà vogliono tatuarsi la data di morte o di nascita del nonno. Insomma, la morte del nonno è una vicenda che li fa soffrire enormemente. Quindi mi sembrava sbagliato, come dire, addirittura accusarli di fregarsi dei propri nonni. Comunque, la creatività e la responsabilità l'hanno dimostrata e credo che in questo momento abbiano fatto fino ad ora quello che gli abbiamo chiesto di fare. Matteo, senti, tu non hai detto solo che gli adolescenti sono stati quelli a reagire meglio a questi giorni scanditi dall'emergenza, ma ti sei spinto a dire una cosa ancora più estrema e molto interessante da padre, la trovo. Cioè dici addirittura che è da loro che dovremmo capire come ricostruire la società del post-emergenza. E in che senso? Ma fermo restando che spetta agli adulti, come dire, fare proposte, credo che in questo momento ragionare su alcune esagerazioni di una società individualista, competitiva, come dicevo prima, dove non abbiamo avuto troppo a cuore il futuro di questi ragazzi, implichi assumersi delle nuove responsabilità da parte degli adulti che devono guidare le politiche, il futuro, ma chiedendo anche ai ragazzi, coinvolgendoli, cioè esattamente come abbiamo fatto adesso, cioè non di indicarsi loro la strada, ma di convocarli, usare modelli più cooptativi di responsabilizzazione, mentre troppo spesso i modelli scolastici ed educativi dell'adolescente tendono a infantilizzarlo, a metterlo troppo vicino al bambino. Io credo in questo senso sia utile pensare a nuovi modelli in cui gli adolescenti siano convocati, possano dire la loro, e anche trasformare alcune cose. Una che dico sempre è quella della scuola. Io poco prima appunto di questa pandemia avevo pubblicato un libro in cui concludevo nelle ultime pagine dicendo che il mio sogno era quello di vedere una maturità, cioè l'esame di Stato, dove i ragazzi avrebbero dovuto fare delle prove connesse online. Non lo intendevo come è accaduto adesso e anche non si potrebbe, perché per giustizia non tutti i ragazzi hanno i collegamenti a casa che gli consentirebbero, però credo che questa è un'occasione più che mai per rendersi conto che le prove con cui dovremmo valutare questi ragazzi non riguardano solo le prove mnemoniche, la classica interrogazione o, come sento dire in alcune situazioni adesso, li interrogano chiedendogli di chiudere gli occhi. Ma mi auguro che l'anno prossimo, quando torneranno tutti a scuola con le dovute tautele, si faccia un esame di Stato in cui tra le prove ci siano prove in cui i ragazzi possano usare l'internet tutto il tempo che vogliono, perché questo farà parte delle competenze che gli sono richieste nel mondo del lavoro. E né io né te né chiunque di noi dicono tu però non guardare internet. Allora vogliamo capire che oggi l'autorevolezza, il rigore adulto davvero si declina andando incontro anche a una possibilità di costruire un futuro di questi ragazzi, e tra questi bisognerà insegnargli cosa vuol dire utilizzare internet, e quindi credo che si debbano fare delle prove di maturità dove si valuta la capacità di saper usare anche la rete. Matteo, un'ultima domanda, questa proprio da padre, no? Come può essere un'opportunità per noi questo momento? Questo momento che tra l'altro andrà a cambiare nelle prossime settimane, no? Quando ci sarà un po' più di libertà, quando i ragazzi e le ragazze potranno di nuovo uscire con regole che ancora non conosciamo, ma già possiamo immaginarci. Ecco, in quanto padri, cosa ci consigli di fare anche per non cadere in stupide trappole? Innanzitutto questa è stata un'occasione per parlare anche del dolore e delle sofferenze. Io ho incontrato molti genitori, no, che dicevano: ma non vorrei far soffrire troppo mio figlio se piango, no? Ci sono state anche delle madri, ma anche dei padri, momenti di difficoltà. Allora, nella nostra società abbiamo rimosso spesso la morte e la sofferenza, spettacolarizzandola. Questa vicenda drammaticissima ci ha posto davanti a questo aspetto e credo che sia stata un'occasione anche per poter tollerare, affrontare il fatto che crescere nella vita significa anche incontrare inciampi, sofferenze e dolori. E credo che questo aspetto, ad esempio, del tema della morte, che noi adulti per proteggere i figli abbiamo sempre tolto di mezzo, mentre una volta i morti, in questa occasione purtroppo non si è potuto, ma i morti una volta si svegliavano, no? Proprio per avvicinare, aveva una valenza educativa, formativa. Credo che questa sia stata un'occasione. Per la seconda fase cosiddetta, nella sua incertezza, credo che si debba puntare ancora una volta su quello che dicevo prima, la responsabilità. Eviterei, va bene, se proprio c'è, come padri non ce la sentiamo di non dirglielo, diciamo: mi raccomando, tieni le distanze. Ma quello che deve fare un padre in questo momento è pensare quali attività aggiuntive proporre ai propri figli, come responsabilizzarli, mandarli a fare nuove attività. In questo senso parlo ai padri, ma parlo alle istituzioni in generale: nuove attività di volontariato, andare nelle farmacie a prendere i farmaci e portarli al nonno alla giusta distanza, cioè dargli compiti, le spese. È quello che dicevo prima, serve in qualche modo coinvolgerli dando loro delle responsabilità, non puntare solo sul controllo. Ringraziamo Matteo Lancini, psicologo, psicoterapeuta, presidente della Fondazione Minotauro, matteolancini.it, per tutte le informazioni. Grazie Matteo per essere stato qua con noi, buona domenica. Grazie a voi, buona domenica. Noi ci fermiamo nel momento del traffico, poi ancora qua con i Padri Eterni. Padri Eterni. Un giorno ti dirò che ho rinunciato alla mia felicità per te e tu riderai, riderai, tu riderai di me. Un giorno ti dirò che ti volevo bene più di me e tu riderai, riderai, tu riderai di me e mi dirai che un padre non deve piangere mai, non deve piangere mai e mi dirai che un uomo deve sapere difendersi. Nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai. Un giorno ti dirò. E sono gli Stadio con Un giorno mi dirai, che ci accompagnano verso il prossimo ospite. Sono e siamo molto molto contenti di avere con noi Benedetta Tobagi, quest'anno, anno in cui ricorre il 40° anniversario dell'uccisione del suo papà, una cifra tonda. Le cifre tonde si portano sempre un significato particolare, anche poi se questo ricordo, questa memoria è vissuta quotidianamente. Ciao Benedetta, grazie per essere qua con noi. Ciao, buona domenica a tutti. Come vi batte forte il tuo cuore, ricordiamo il titolo del tuo libro, uscito nel 2009, ma libro ancora attualissimo, che racconta una storia, racconta la storia di una figlia che Benedetta, come hai scoperto e come hai riscoperto tuo padre? Mio padre Walter Tobagi è stato un giornalista importante, molto noto. Quando è stato ucciso lui era inviato speciale del Corriere della Sera, anche se lo ricordo per gli ascoltatori era giovanissimo, aveva appena 33 anni, quindi per gli standard di età di oggi un ragazzino. E poi è stato uno storico, ha scritto diversi libri e poi era molto impegnato nel sindacato. Quindi è un uomo che ha scritto per tutta la vita, ha scritto tutta la vita per lavoro, quindi una miriade di articoli, di saggi, materiali preparatori, ma poi la cosa più divertente che ho scoperto studiando negli armadi e nei cassetti di casa è che lui era un grafomane anche nella vita privata, quindi io mi sono trovata con un tesoro di carte, le lettere che si scambiava con gli amici e con le ragazze di cui si innamorava negli anni 60, tutti i suoi quaderni, materiali di lavoro, dei quaderni in cui scriveva di fatto il proprio diario. Quindi io negli anni ho potuto conoscere mio papà, perché è stato ucciso quando io ero molto molto piccola, quindi di fatto non ho praticamente ricordi di lui, attraverso questa sua autonarrazione, attraverso la carta, attraverso tutto il suo lavoro. Benedetta, in questo tuo lavoro di recupero, no? Oltre agli articoli, al lavoro di ricerca, hai anche ascoltato la voce di tuo padre incisa sulle cassette. E com'è conoscere il proprio padre, riconoscere il proprio padre in questo modo, recuperare una figura che, come ci dicevi, purtroppo, essendo tu molto piccola quando lui è morto, non ha fatto parte della tua vita di bambina e di ragazza? Che tipo di emozione è? Ma è una cosa molto particolare. Beh, visto che siamo alla radio, mi fa piacere ricordare che oltre alle cassette, all'epoca notte, per registrare le interviste, un giornalista usava il mangianastri. Ho trovato anche negli archivi delle sue trasmissioni radio, perché da giornalista ogni tanto veniva chiamato dalla RAI a fare la rassegna stampa, no? E poi il suo filo diretto con gli ascoltatori, quello devo dire è stato molto divertente. Ma il punto particolare è che di fatto da una parte conosci tuo padre, dall'altra io ho potuto conoscerlo nelle sue varie età della vita attraverso anche materiali molto personali, no? Pensate cosa può essere una lettera scritta a un amico, a una ragazza per cui ti sei preso una cotta a 16 anni. E ancora più strano è che io l'ho potuto conoscere, perché io ho cominciato a fare questa ricerca quando ero ragazza, in qualche modo ho conosciuto mio padre quando avevo la stessa età e lui aveva la mia età. E l'ho seguito perché poi ho completato il lavoro di ricerca, ho finito di scrivere il libro e che mi stavo avvicinando al mio 33esimo compleanno, per cui di fatto è come se il mio orologio avesse raggiunto il suo. E adesso devo dire, mi fa uno strano effetto pensare che io ho 10 anni più di quanti ne aveva lui quando è morto. Certo. Per cui da una parte ho conosciuto mio padre, dall'altra ho potuto conoscerlo come normalmente non si conosce un genitore, come un coetaneo. E poi una cosa che forse è la più strana di tutte, che rimettendo insieme i pezzi, no? E poi decidendo di raccontare la sua storia, poi anche la storia del periodo storico, ricostruito la vicenda dell'omicidio, di quello in particolare periodo di terrorismo diffuso in Italia, mi sono dovuto occupare di P2, insomma di cose un po' terrificanti. In qualche modo delle volte mi è sembrato di invertire quasi i ruoli, perché comunque io mi sono presa cura di lui e quella forse è stata la cosa più tenera di tutte da poter fare per me. Certo, ma e da scrittrice, da giornalista, ti sei accorta se negli anni ti sei anche confrontata con lui, con la sua testa, con i suoi pensieri, con quello che lui avrebbe detto o avrebbe scritto in questi anni? Allora, dunque, anche qui succede una cosa particolare, cioè quando tu veramente leggi tantissimo, qui forse mi può capire chi ha studiato molto a lungo la figura, no, di un scrittore o di un giornalista, eccetera. Dopo un po' una persona, quando leggi veramente centinaia e centinaia di migliaia di pagine di cose che ha scritto, te la senti dentro la testa. per cui in quel senso hai una specie di dialogo mentale, perché comunque per me, tra l'altro, mio padre scriveva benissimo, non lo dico io perché sono chiaramente come una figlia che gli vuole moltissimo bene, obiettivamente aveva una penna particolarmente felice e una scrittura molto elegante, molto chiara, e quindi obiettivamente è anche un bel riferimento da avere in mente. A me è capitato più di una volta magari di andare a riprendere delle sue cose, dei suoi pezzi, perché mi stavo appunto chiedendo io, no, come impostare un testo, eccetera. E per cui in quel senso hai questo dialogo mentale che di fatto continua, perché ti torna in mente e ce l'hai come pietra di paragone. Il fatto invece di pensare cosa avrebbe detto di una cosa, eccetera, quella è più una cosa che mi chiedono gli altri, perché francamente io non riesco a immaginarlo e non mi sembra neanche giusto immaginare o provare a dire che cosa avrebbe detto della tale o tal'altra cosa, perché la sua vita è stata fermata nell'80 e noi tutti abbiamo quello che lui ha detto e scritto prima, appunto come confronto, come ispirazione, come termine di paragone. Benedetta, proprio perché tu hai conosciuto tuo padre in questa maniera così particolare e peculiare, no? Forse a un certo punto avrai sentito di avere ereditato anche qualcosa da lui, nella sua passione per il lavoro, nella sua maniera di essere rigoroso nelle ricerche. Ma se tu dovessi dire una cosa che ti ha lasciato col suo esempio professionale e umano, che cerchi di tenere sempre presente, quale sarebbe? Oddio, questa è una domanda difficile. Ma in realtà è una cosa un po' particolare, perché una cosa che io che mi è piaciuta molto scoprire in lui e che io sento molto era questa grande curiosità, entusiasmo e passione sempre per il lavoro, curiosità per le cose, curiosità per le persone. Questa è una cosa in cui io lo sento molto vicino e in cui mi sento affine. Poi certo potrei dire che chiaramente quando studi tanto il lavoro, gli articoli di un giornalista come lui, che era proprio alta classe oltre che vecchia scuola, assorbi e ti rimane un pochino sempre questa vigilanza su te stesso, perché chiaramente c'era una grande attenzione alla verifica dei fatti, alla chiarezza, al rigore, eccetera. Però più ancora è questa curiosità e anche questo entusiasmo e passione per il lavoro, per la ricerca e per le persone in generale anche. Certo. Benedetta, grazie davvero per aver condiviso con noi questo pezzo di storia, cosa che hai fatto tantissima anche nelle scuole con le ragazze e i ragazzi, no? Dove immagino sia difficile anche scindere, non so se vai a raccontare il padre, se vai a raccontare il giornalista. Realtà, qual è l'effetto di solito che i ragazzi hanno? No, in realtà una volta fatto il libro che intreccia il piano personale della mia ricerca, la vita di mio padre con la storia pubblica, quindi il periodo in cui lui ha vissuto e poi il periodo del terrorismo, la storia della sua morte. E in realtà io, più che andare a parlare di lui, incontro ragazzi che hanno letto. Sì. Hanno letto il libro. Allora io vengo invitata e allora è molto bello, perché in realtà io vado e rispondo alle domande che sono state suscitate nei ragazzi dal confronto con le cose che ho scritto io e che ha scritto mio padre. E allora è pazzesco, perché in realtà le risonanze sono diversissime, e però è molto bello lo scambio. Per me chiaramente è molto più facile, perché in qualche modo sono i ragazzi che si mettono in gioco e chiedono delle cose, però è molto bello perché i temi risuonano a tanti livelli. Cioè, qui è più interessato per esempio alla professione giornalistica, a tutti i problemi, no? Come facciamo a informarci e orientarci oggi tra le fake news, chi è più interessato al periodo del terrorismo. Molti hanno delle domande che sono, insomma, vorrei che li sentissero tutti quelli che dicono che i ragazzi sono superficiali, non si interessano a niente, perché in realtà sono delle domande molto molto profonde che hanno a che fare con la ricerca di senso, le domande molto radicali della vita di fronte a una morte violenta, di fronte a come si elaborano certe esperienze, a scelte di vita radicali che appunto possono arrivare a, a mettere a rischio la vita di una persona. Quindi devo dire, non lo so, delle volte penso che sia più bello per me che per loro, perché in qualche modo entro in contatto con loro che si confrontano con temi molto, molto grandi, molto belli e anche molto personali. Grazie davvero a Benedetta Tobagi per essere stata qua con noi. Ricordiamo ancora Come mi batte forte il tuo cuore, il libro edito da Einaudi. Ciao Benedetta, buona domenica. Ciao, buona domenica a voi. Tempo scaduto, è il momento dei saluti. Un grazie a Danilo Di Trani che con noi ha scritto la puntata, un grazie come sempre alle ragazze e ragazzi di Radio Immaginaria per il supporto nel realizzare questa puntata in remoto, un grazie a voi per essere stati in nostra compagnia. Ciao Matteo, buona giornata e buona settimana. Ciao Fede, buona settimana a te. L'appuntamento come sempre a domenica prossima alle 11 con i Padri Eterni. Ciao!